is really appestated, veramente inteso come grande complimento, Questo produttore tedesco che mette insieme glitch, techno, ambient, elettronica. Alla sua discografia mancava questo EP. Cos'è un EP? È un formato 12 pollici inteso come produzione di remix e alternative take, versioni alternative. È un doppio EP con 4 brani su vinile e 4 sull'altro. Ed è Silizium il titolo, ed è l'introduzione a quello che è l'incipit di oggi, ringraziando Silvia Pioggia, la Sissa, che ci parlerà di un filosofo, scrittore, psicologo, di cui non ho mai letto, né conosco chiaramente i contenuti, ma non ho mai avuto così l'intuizione di leggere qualcosa, anche perché non si può leggere tutto, su, dai! Gianluca, sottolineo tutto, parola per parola, quello che hai detto. L'informazione per il 103.1 è trasversale, pur restando con delle attinenze, assolutamente delle peculiarità uniche, però come ben sapete e sappiamo c'è una trasversalità. Il Breakfast Club ha una linea. Proprio non ce la facciamo a riconoscere i nazisti, a simpatizzare con loro. Ovviamente è Putin che è un dittatore, ma qui ci troviamo di fronte a due stati assassini canaglia che ci stanno portando alla rovina. Sì. La credenza che la realtà che ognuno vede sia l'unica realtà è la più pericolosa delle illusioni. Sono parole di Paul Watzlawick, che è questo intellettuale austriaco, poi naturalizzato statunitense, della scuola di Palo Alto, seguace del costruttivismo derivante dal pensiero relativista, un percorso di studio nella psicoanalitica junghiana, l'approccio sistemico. Insomma, Paul Watzlawick, in questo saggio di cui avremo l'incipit curato da Silvia Pioggia, è protagonista in questa piccola pillola che apre il Voltiamo Pagina, che sarà imminente la rubrica letteraria dei 103.1. Intanto ricordo 333-180-9494. Avremo due libri in palio per voi, ascoltatrici e ascoltatori. Intanto Silvia Pioggia, la Sissa e l'incipit di oggi. Ciao, sono la Sissa e questo è l'incipit, tutto in 20 righe. Il grande Oscar Wilde diceva: non c'è una seconda occasione per fare una prima buona impressione. E allora, che cos'è la prima pagina di un libro se non la sua prima occasione? Ci affidiamo sempre alla prima impressione, quando conosciamo qualcuno, quando dobbiamo cambiare, tutte le volte che dobbiamo fare qualcosa di nuovo. E allora, perché non farlo con le prime righe di un libro? Chissà cosa hanno pensato gli autori nel decidere che sì, quello era un buon incipit per il proprio manoscritto. Chissà se hanno pensato a che effetto avrebbe avuto su di noi potenziali lettori. Io sono molto istintiva e mi lascio attrarre dall'estetica del volume, dal fascino dell'autore. E voi, in base a che cosa decidete se e quale libro cominciare? Leggerò insieme a voi la prima pagina di alcuni volumi che ho trovato nel mio girovagare per la città e scopriremo se questa teoria delle 20 righe è un metro efficace per le nostre selezioni. Buona la prima! è Istruzioni per rendersi infelici, di Paul Vaclavic. Ed iniziamo dal primo paragrafo dell'introduzione. Da un essere umano, che cosa ci si può attendere? Lo si colmi di tutti i beni di questo mondo, lo si sprofondi fino alla radice dei capelli nella felicità, e anche oltre, fin sopra la testa, tanto che alla superficie della felicità salgano solo bollicine, come sul pelo dell'acqua. Gli si dia di che vivere, al punto che non gli rimanga altro da fare che dormire, divorare dolci e pensare alla sopravvivenza dell'umanità. Ebbene, in questo stesso istante, proprio lo stesso essere umano vi giocherà un brutto tiro, per pura ingratitudine, solo per insultare. Egli metterà in gioco perfino i dolci e si augurerà la più nociva assurdità, la più dispendiosa sciocchezza, soltanto per aggiungere a questa positiva razionalità un proprio funesto e fantastico elemento. Egli vorrà conservare le sue stravaganti idee, le sue banale stupidità. Come dire, insegnatemi ed aiutatemi ad essere felice, perché ad essere infelice sono bravissima da sola. Io lo leggo. Come on, my readers. Colonna sonora con il formato EP per l'incipit della Sissa, che ringraziamo. Beh, lei compare, come ben sapete, il mercoledì, chiaramente dal via alla parte letteraria, che entra nel vivo a breve con il Voltiamo Pagina, con Silvia Albertazzi, già in studio con noi assieme a Stefano Calanchi. Ribadisco, per comunicazione, co-conduzione, risposte al quiz, il 333-180-9494. Vi lascio ascoltare un po' di Telephone Tel Aviv al remix di questo brano di Nitrada. A tra poco. Buon ascolto. Lights are still watching you. There at the wall sideways from.